Tuo Parenzo sembrate a volte i deregi evoluti. Avete un enorme sarchiappone lì come Walter Chiari, ma non si sa che cosa minchia c'è dentro. Allora, cioè, perché sei così? Perché sono uno stronzo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Donna di Pignamma, un nome non se fa, gli è successo l'altra sera che si è persa a rendiera mentre ballava a Macarena. Nel meridione io ho fatto campagne elettorali e poi mi sono segnato su 10 signori anziani a quanti visibilmente mancavano dei denti, 5 su 10. E 1 su 10 gli mancavano tutti i denti e naturalmente soffriva anche di stomaco. Bene, noi possiamo garantire l'impianto dei denti a spese dello Stato a tutti gli anziani che non abbiano risorse sufficienti per pagarselo loro. Allora, ci sono due cose di cui tenere conto, caro David. Due cose. Questo però è importante. Su questo non si scherza. Non si scherza. La prima cosa è questa. Hai sentito che c'era un sottofondo di Bau Bau? Ne pensavo l'avessi messo tu quello. No, non era Berlusconi alla festa degli animali organizzata dalla Brambilla. Alla festa? Degli animali. No, dai, io su. Vado via. No, no, dai, resta chiudo qui. Chiudo tutto. Me ne vado. Aspetta, festa che stavolta animali, denti. Aspetta, comunque, sarai costretto a dare ragione per la prima volta a Grillo. Sarai costretto a dare ragione. Ragione a Grillo, senti fra poco. Avanti. Ci sono due cose da considerare. Primo, sì, dicevo i bau bau di sottofondo. Sì. E la seconda è, noi daremo le dentiere, diciamo, ma no, soprattutto noi chi? Ma noi chi? Cioè, o si mette a distribuire stile Achille Lauro e dentiere, oppure noi ma niente. Quando poi? Cioè, qui si vota per le europee. Che primo, secondo, non è che al governo Forza Italia, no? Cioè, forse no, ci vorrebbe andare. Ma secondo te lui va da Juncker, il signor Juncker, candidato alla commissione del signor Schulz, e gli dice io ho promesso le dentiere, caro Juncker, vabbè, devi dare dai, le dentiere. Troppo facile però fare ironia su queste cose, sì, è troppo facile. Persa a dentiera. La dentiera, io divento pazzo, la dentiera. O siamo noi che non capiamo niente, siamo troppo snob, eccetera, eccetera, oppure è lui che è un genio, cioè, no? Oh, poi cita anche la zanzara, caro Parenzo, Berlusca. No. Sì, non esplicitamente, ovviamente, però sì, dice che ci ringrazia, in realtà ci mette un po' nei guai, ovviamente, ci ringrazia, sì, per la telefonata a Barca, al signor Barca. Ha una sinistra che attraverso una telefonata concreta di cui siamo venuti a conoscenza di Barca, illustre esponente della sinistra, ha detto che per la nostra situazione bisogna imporre agli italiani una imposta patrimoniale di 400 miliardi. Diciamo che la usa, no, pro la domo, pro domo sua, a suo uso e consumo, pro dentiera sua. Vabbè, che c'è sugli animali ancora? Berlusconi, vabbè, senti questa cosa su Gandhi, come pronuncia la parola che dovrebbe pronunciarsi il Mahatma, no? Io almeno questo lo so, sarò ignorante, come no? Ma il Mahatma lo so, il Mahatma. Aspetta. Diceva Mahatma Gandhi, la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali. Diceva un altro protagonista della storia, Lincoln. Il Mahatma Gandhi è stupendo. Il Mahatma Gandhi. Mahatma. Beh, siamo al top, il Mahatma Gandhi. I sentimenti. Vabbè. Fa discorre. Negli Stati Uniti mi hanno fregato il marchio Dudu. È un cagnolino, ho trovato, lo conoscono questo cagnolino in America e ho avuto notizie in questi giorni che stanno facendo dei vestitini per cane, dei cibi per cane targati appunto Dudu. Io non ho pensato di correre a depositare il marchio, ma comunque così. L'altra sera mentre ballava. Grillo, Dudù e la vivisezione. Oh, devo dire la verità, adesso mi attirerò le ire degli animalisti, eccetera. Anch'io, io sono d'accordo sulla vivisezione. Sono a favore della vivisezione. Ovviamente la vivisezione, secondo le regole internazionali, mondiali, planetarie, eccetera. Ma sono d'accordo sulla vivisezione degli animali. Se ci pensa quello che gli è... Ha perso il treno, è vecchio, è Tutankhamon, è messo lì, è mummificato, con tre dita di Fard, va lì in tutti i programmini a fare il simpatico con quel cazzo di Dudù che bisognava darlo alla vivisezione. Ma vaffanculo te, Dudù! Non alla vivisezione, che poi ecco il titolo del TG2, Grillo a favore della vivisezione. Vuole io sono solo a favore della vivisezione per Dudù, solo per lui. Allora basta, per gli altri no! Tu Grillo parla, che parli alla gente, ma chi fa. Beh dai, su, è eccezionale, dai. Fa ridere, fa ridere, però è una stupidaggine. Fa ridere, ma certo, è una stupidaggine. Ho capito, però basta con sta storia. Su, gli animali, Dudù, eccetera. Vivisezione pure per lui, dai. No, è così adorabile. No, questo no, vivisezione per Dudù no. Però vivisezione per gli animali sì, quando serve, ovviamente. Beh, no, sai, la scienza per ora non ha trovato. Abbiamo già un grande ospite collegato, però. Molto però, bene. Voglio fare ascoltare a tutti, nonché... Signor Schulz, hai collegato il signor Schulz, candidato... Signor Capò, anche secondo Grillo, perché Grillo ha detto che Schulz aveva ragione Berlusconi a dirgli Capò, ma in realtà più che Capò è Crapò, c'è cioè un crapun. Bisogna dire che Schulz l'ha definito tipo Stalin, siamo a questo livello, sì, eh. Oh, di Berlusconi però c'è anche la questione di Scajola. Senti che cosa ha detto: non bisognava infliggere l'umiliazione del carcere a Scajola. Senti. Mi sembra una assurdità mettere in carcere un signore che è stato ministro degli interni perché ha favorito lo spostamento di un amico già in esilio, già scappato, diciamo, già latitante da un paese all'altro. Mettilo ai domiciliari, se vuoi, infliggergli l'umiliazione del carcere per una cosa del genere. Però allora ha fatto una bella cosa Scajola, forse. No, certo, ma allora se tutti quelli che non fanno belle cose dobbiamo metterli in galera, siamo a posto. Ma quella violenza di cui parli. I ragionamenti di Berlusconi. Sì, era il signor Oliva a Tele Lombardia, era il signor Oliva. Sì, sì, però io dico una cosa, Berlusconi. Signor Oliva. Berlusconi, adesso lasciamo perdere il carcere, io non lo so, però se uno cerca di far trasferire, poi ci sono tutta una storia, pare di soldi, di rapporti con la signora Matacena, pare un conto corrente della Camera, ma sì, addirittura uno utilizzato. Uno cerca di far trasferire uno che è latitante da un posto a un altro, sì, dove forse potrebbe rimanere a vita, oppure... Non è il massimo, diciamo. Non è... No, ma è bello il signor Oliva, che infatti gli dice, ma non ha fatto proprio una bella cosa? Dice, ma no, mica tanto, insomma. Fagli risentire la domanda, ma non ha fatto proprio una bella cosa? Va bene, abbiamo con noi Pippo Baudo, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Caro buonasera. Pippo, come stai? Non fatemi trasferire, vi prego, non fatemi trasferire. No, il Libano no, il Libano no, anche tu no, no ti no, prego. No, il Libano non mi interessa, non mi interessa. Il sono Libano. Stato in Libano quando il Libano era veramente un bel paese, sì, ho portato Jacques Brel al casinò del Libano. Oggi c'è Dell'Utri invece. Oggi c'è Dell'Utri che è un'altra cosa, sono un'altra musica. Senti, ma ti fa vergognare un po' per la Sicilia questa storia di Dell'Utri? Diciamo, sei un po', insomma, rappresenta un po'. Guarda, se noi siciliani dovessimo vergognarci per tutte le cose brutte che abbiamo fatto, non dovremmo più uscire da casa, insomma, perché vabbè. La mia amara terra mia, come diceva Modugno, amara e bella, però amara. Ha prodotto dei mostri, diciamo. Amara, ha prodotto dei mostri, ha prodotto delle ingiustizie, ha prodotto degli arraffa. E Dell'Utri come lo consideri? Ma io Dell'Utri vabbè, lo conosco benissimo, da molto tempo, è stato condannato con sentenza che deve passare in giudicato, già si dice se viene deve andare a agli arresti domiciliari, ma no, ma allora Vasavasa, perché non fate un inno a Vasavasa? Che è Cuffaro, diciamolo Cuffaro, subito. Cuffaro, il quale si è consegnato senza dire una parola, ed è lì e non gli hanno dato nemmeno il permesso di partecipare ai funerali del padre morto. Ma che forse e, e sta scontando tutti gli anni di carcere per lo stesso tipo di reato, associazione esterna di tipo mafioso. E dunque anche Dell'Utri, tu dici, dovrebbe tornare a costituire... Secondo me bisogna che questo paese dica che la legge è uguale per tutti, insomma, veramente. Dunque, tornare a Dell'Utri, dai un consiglio da siculo a siculo, diciamo. Torna, costituisciti e... Ma io a me piacerebbe molto se lo fai, sarebbe un gesto di amore nei confronti del nostro paese. perché okay. Poi tra parentesi, Dell'Utri è una persona intelligente e coltissima, sì, sì. Quindi queste cose le capisce. Però insomma, come si dice, anche tra gli intelligenti e i coltissimi si possono annidare dei criminali, diciamo. No, vabbè, non è... vabbè. Questo è una cosa che dite voi. Questo lo dico io, perché lo dico io. No, non è che se uno per forza ha letto 2000 quando uno libri... dice, quando uno dice come Berlusconi, quello è un bibliofilo, perché io sono amico di Dell'Utri, cioè lo considero anche un po' perseguitato. Ma non è perseguitato dalla magia, lui dice che è prigioniero. Ma questa cosa di Scajola mi ha fatto ridere, l'ho sentita prima. Sì, che, sì. Ma come si può mettere in galera un ex ministro degli interni che ha favorito? Ma ha maggior ragione, perché era ministro degli interni. Certo. È un aggravante. Sì. Il fatto di essere stato ministro degli interni e avere favorito un esiliato. Senti una cosa, ma Berlusconi che è tornato sulle... Tu hai bisogno di una dentiera per caso da Berlusconi, caro Pippo? Ma perché? Com'è? Tu usi la dentiera, scusami se te lo chiedo. Io quando vado dal dentista, oppure quando mi fanno l'anestesia, mi dicono... Tutto attaccato, dico sì, è tutto attaccato. Però hai sentito Berlusconi che dice gli anziani, io perché mica per me sei anziano, per me sei Pippo Baudo, punto. Pippo Baudo non è né vecchio né anziano, né giovane. Pippo, certo, è un monumento. Io sono eterno. Tu come Berlusconi, fino a quando vuoi campare? 120, 130? Io basta un giorno dopo di lui. Un giorno dopo Berlusconi, dici? Sì. Senti una cosa, ma voglio chiederti, la dentiera per gli anziani, questa è la nuova idea di Berlusconi, che dici? Una tristezza? Brillantina, dal punto di vista politico-elettorale è bellissima. Dici? Tutti questi sdentati che vanno lì e si mettono la dentiera nuova, se la attaccano bene con queste paste che vendono e quindi votano... contenti col sorriso sulle labbra. Ma non ti mette tristezza una cosa del genere? Promettere... Ma certo, ma c'è, per carità. Beh, per però carità. C'è chi ha bisogno, Pippo, sai. Ho capito, ma uno c'ha bisogno, ma anche io dico una cosa, anche quelli che hanno bisogno oggi ce l'hanno gratis lo stesso, credo. Beh, sai, se sanità... ti arrivano. No, ma ci sono le altre che danno le dentiere a tutti. Ma dai, che differenza c'è tra le dentiere e gli 80 euro? Ad esempio, te lo chiede uno. No. Questa però non è male come cosa. Questa è una battuta anti-renziana. Cattiva. È una provocazione 80... di Parenzo? Una provocazione. Sì, 80 euro è un benefit che va ai lavoratori che percepiscono uno stipendio che è insufficiente e arrivano improvvisamente 80 euro di più. Spero che arrivino questi 80 euro veramente. Ma gli 80 euro al giorno la dentiera costa di più di 80 euro. Perché però. Sì, costa molto di più. Sì. Però lui, Pippo, dice non si può paragonare gli 80 euro che vanno con la paga con la promessa delle dentiere. Però non era male la provocazione di Parenzo. Eccoci qui, la Zanzara con Pippo Baudo, caro Parenzo. Io però voglio chiedere a Pippo, che è diventato super affascinante. No, voglio chiedere una cosa: è diventato super affascinante con i capelli bianchi. Quanto ci ho guadagnato, come ho sbagliato a non farlo prima, porco Giuda. Esatto, ma perché non lo fa pure Berlusconi? Magari potrebbe essere. Ma io glielo consiglierei affettuosamente, perché recuperi te stesso. Ormai può darsi che non possa più farlo, sai? Perché dici? Perché lui ha una specie di asfalto messo sulla cute. Sì, è vero. L'asfalto, devono smantellare la strada. No, un po' è vero, sì, è vero. È un po' asfaltato, non so cosa un abbia po' asfaltato, fatto. Asfaltato, quindi è difficile, sai. È difficile tornare alla situazione quo ante. È difficile, bisogna fare un altro asfalto chiaro, ma non va. È un casino, Parenzo, è un problema. Dovrebbe farlo, tu dici, acquisterebbe in, come dire, tutti ci guadagniamo, tutti. Quando diventiamo noi stessi, con i nostri difetti, con i nostri tic, con i nostri porri. Sì. Senti, ma l'altra cosa su cui punta Berlusca sono i cani, hai visto gli animali? C'è una grande campagna. Tu hai animali, caro Pippo? Tu possiedi qualcosa? No, io ho dei cani in campagna, io non tengo cani in casa, non li porto a spasso per il parco e gli faccio fare la pipì per strada, oppure raccolgo la cacchina con la paletta. Però non si sente necessità, diciamo, di avere un Dudu Act, di avere una legge. No, questa storia di Dudu no. Basta, e che? O no? Dudu. Bisognerebbe proteggerlo quasi, o no? Ma non dovevamo vederci più, Dudu. No, quello era. Questo non è male, però. Dudu, ma non dovevamo vederci più. Sempre sul pezzo, Pippo, non c'è niente da fare. Ma scusa, ma che farai alla Rai? Non ho capito, che farai? Che faccio? Adesso faccio lo spettacolo di Conti, dove faccio il giurato e mi diverto tanto. Poi faccio il compleanno della Laura Pausini, 25 anni. Sì, quello ho letto che lei ha detto. È successo, eccetera. Però farò perché Rai 1. Quando uno torna. Torna a Rai 1, non è che torni lì nelle retrovie, torniamo a Rai 1. No, diciamo. Torniamo a Rai 1. Lo possiamo dire che torna a Rai 1, sì, si può dire. Ma speriamo, perché non è che comandio, devono comunque decidono loro se devo tornare o meno. Io se mi sento pronto, i capelli ce li ho bianchi, sì, il fisico ce l'ho, la dentiera non ce l'ho. Non ce l'hai, i denti tutti attaccati. Non però, tu. Però io devo dire la verità, che anche Grillo adesso va a Rai 1, ma tu ti rendi conto o no? Cioè Grillo da Vespa, adesso lasciamo perdere le polemiche con Vespa, non voglio più tornare su queste due polemiche, per carità. Se no te va a finire male pure stavolta la Rai, non vogliamo assolutamente. Però Grillo che va, che sceglie di andare in prima serata da Vespa, è una caporetto pazzesca. È un colpo di scena fortissimo. Ma chi ci guadagna secondo te? Grillo? Bisogna vedere come andrà la discussione, insomma, certo che io sono molto curioso di vederlo, senz'altro come tanti milioni di italiani, perché È l'evento vero televisivo, sì, è vero, è un evento. No, perché poi l'ho sentito prima, è un momento di rabbia enorme, quindi sfogherà tutta questa, vediamo un po' che cosa succede, insomma, dobbiamo essere. Però chi ci guadagna secondo te? Ma chi ci guadagna? Nessuno ci guadagna, speriamo ci guadagni il pubblico che abbia un'idea precisa dei progetti dei 5 Stelle. E magari si fanno due risate lo stesso. Vediamo, comunque Grillo funziona di più nei comizi quando fa il monologhista, da Vespa io non ce lo vedo lì con le domande. Che gli smonta lo studio, tutto. Gli ma fa. Bisogna vedere come lo fanno lo studio. Cioè se fossi Grillo che faresti? Faresti un casino pazzesco, andresti lì, smonteresti lo studio. Ma fossi... io penso sai che non lo farà perché... Lui capisce, guarda che il ragazzo io lo conosco bene. È più paraculo di quello che sembra. Appunto, non è che va lì e fa il guastatore e incomincia a gridare, ragionerà. Senti una cosa, la Juventus, ma tu devi sapere che oltre a essere tifoso del Canale, pure tifoso della Juventus, ma secondo te, Pippo, quanti scudetti ha la Juventus? 30 o 32? No, io che Juve non glieli do alla Juve, io gli ho detto anche a Edoardo Agnelli, quei due mi sono stati tolti perché è stata accertata una corruzione con la condanna del signor Moggi che ha comprato le partite, quindi è utile tornare sempre su quei due scudetti. Non ci sono stati, avete fatto la Serie B, onestamente il signor Del Piero, il signor Buffon hanno fatto la Serie B, hanno vinto il campionato e sono tornati in Serie A, quei due non contano e Moggi... contano moltissimo questi tre. E Moggi è un delinquente praticamente? No, Moggi è stato condannato, è stato ritenuto colpevole di corruzione. Con sentenza passata in giudicato e le sentenze sono sentenze. A parte che non è ancora definitiva, quella sportiva è definitiva. Sì. Io sono laureato in giurisprudenza, per me la sentenza è un sì. Corruzione, poi non era corruzione, comunque associazione a delinquere. Non so che cos'era. Comunque due scudetti la Juventus non ce li ha in più, sono 30, punto e basta. Ma poi ne ha 23 in maniera così brillante, questi tre scudetti sono stati bellissimi. Sì. Piuttosto è nato il problema di Conte che Serio. Ecco, ma secondo te che deve fare la Juve adesso? Ma perché Conte capisce che con l'organico che ha non può fare più niente. Dunque, tu lo capisci, gli consigli di andare via? No, gli consiglio di convincere a tirare fuori i quattrini e di pigliare giocatori di prima scelta. Cioè, dunque, Agnelli tira fuori i quattrini per far restare Conte, questa è la cosa perché che dici. Tevez. Tutti questi qua sono giocatori di seconda scelta delle grandi squadre rispetto, non so, al Monaco, al Saint Germain, a tutti questi qua. Va bene, allora, Pippo. Siccome lui ci tiene a fare bella figura, tirasse fuori i quattrini e facesse rimanere Conte. Vabbè, caro Pippo, ti abbraccio, a presto. Fammi scritturare dalla Juve con lo stipendio. Magari. Dudu, ma non dovevamo vederci più, Dudu. Berlusconi da Liguori, caro Parenzo. Senti che cosa ha detto a Fatemi Sfatti. Scagliola in carcere per aver aiutato un amico. Ma dipende, amico mio, di che tipo di amico si tratta. Scagliola intanto da alcuni anni non faceva parte più della nostra organizzazione politica. E anche lui oggi è in carcere perché mi sembra, sintetizzando, che abbia cercato di aiutare un amico latitante in difficoltà, richiesto dalla moglie di questo amico. Allora, a me però fa impazzire una cosa di questa vicenda. No, no, ma senti che cosa ha detto, no? Se uno va ad analizzare bene, da anni non faceva più parte di questa organizzazione politica. Ma scusa, ma di che stiamo come parlando? D'anni? Ma fino all'altro ma giorno come era sul punto di candidarsi con Forza Italia, poi è stato estromesso per motivi che abbiamo raccontato e che sappiamo. Ma come si fa a dire da anni non faceva più parte di questa organizzazione politica? Ma poi quando abbiamo intervistato a noi, che ci parlava degli asparagi l'ultima volta, sì, no? Di asparagi, certo, parla... certo, ma di non asparagi. È che ha detto non sono, non faccio più politica, anzi dice no, continuerò a fare le mie cose, a lottare per... questo diceva oltre agli asparagi, cioè Scaiola. Adesso richiamiamo Pippo, adesso richiamiamo Pippo, poi tra l'altro ci ha chiamato nell'intervallo una persona, sì. Ci ha chiamato nell'intervallo una persona, ma che mi arrivano, ma chi è che molto incazzato, perché mi chiamate durante la trasmissione? Iva Zanicchi ci chiama sciamannati oggi, l'aria che tira, sentiamo. Volevo sapere, poi sarà ancora così arrabbiata con Berlusconi che la tratta peggio di Dudu, come ha detto l'altro giorno. No, dai, era una battuta che tra l'altro l'ho detto io, ma quei due sciamannati dalla Zanzara. E sono loro tutto, che sono cattivi. Dicono tutto, poi dopo te lo mettono in bocca a te. Va bene, no, va bene. Io ho detto che mi sono sentita un po' sola in questa campagna elettorale, ma come tutti. No, aspetta, adesso rimettiamo le cose a posto, cari sciamannati, Lazzani. Amica mia. No, ma sciamannati va bene, ma mi va sì, bene sciamannati. Non è che mettiamo in bocca è una niente. Delle cose più tenere che mi sono state dette negli ultimi anni, però noi non mettiamo in bocca nulla, cara Zanicchi. Anzi, abbiamo questo. Detto mi tratta peggio di Dudu. Sì, scrivete questo, dite questo. Visto e considerato, come hai detto tu, che io il 24 maggio non verrò eletta perché sono da sola come un cane. Diciamo la verità, diciamola tutta. Berlusconi ti ha lasciato sola come un cane, e diciamolo, no? Magari, visto che lui ama tanto i cani, non sarei sola. Magari fossi Dudu. Tratta meglio Dudu di me. Dai, su, ma di che parliamo? A parte che dice Dudu. Dudu. Dudu. Dudu. Dudu. Bravo. Vabbè, TG3, dai. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Naufraga un barcone con 400 a bordo, almeno 15 morti, dispersi sono 200. Alfano, l'Europa ci lascia soli. Boko Haram diffonde un video delle studentesse rapite in Nigeria. Convertite a forza, per liberarle chiede scambio con i terroristi arrestati. Renzi, l'Expo una grande occasione per l'Italia, fermare i delinquenti non i lavori. Cantone, ora servono più controlli e trasparenza. Gli interrogatori, Frigerio e Griganti negano il coinvolgimento. Sala, l'antimafia per la procura, l'Expo deve andare avanti. Berlusconi, Matacena, non mi ricordo di lui. A Nizza, interrogata la moglie dell'ex deputato PDL. Scaiola, il giallo di un conto corrente alla Camera. Per Kiev è una farsa il referendum dell'Est. Mosca minaccia, se non pagate vi taglieremo il gas. L'Europa decide nuove sanzioni. 40 anni fa il referendum che confermò la legge sul divorzio. Come si divise allora l'Italia e che cosa è cambiato nelle famiglie e nella società? Gli amanti di Dudu sono arrabbiati, Pippo Baudo, perché tu hai detto come non dovevamo vederci più, ma questo cane secondo te è un po' bistrattato? Ma questo cane è viziatissimo. È viziato, è il massimo. Ma per carità, ma tutti i cani vorrebbero essere trattati come lui. Ma è diventato un personaggio politico, lo faremo presidente del Consiglio. Però secondo me, da questo punto di vista, Berlusconi ha comunque ancora del genio, no? Perché è riuscito a trasformare Dudu... anziché deputati mette dei cani. Tu dici che alla fine è quasi uguale. No, ma scusami, dai, Pippo, tu, uguale, tu uguale, che Pippo, tu che sei uomo colto, ricorderai che Caligola nominò senatore il cavallo. Guarda, no? io mi ricordo questo, a me mi ricordo un'altra cosa che tu forse non ricordi, cioè? Parini, la vergine cuccia del Parini. Cioè? Ah, certo, delle grazie alunna. Certo. Voi che siete più acculturati, ditemi voi di che stiamo parlando. La vergine cuccia delle grazie alunna. Cioè sì. Spiegatemi ragazzi, voi che siete colti, io sono una del popolo. Era una caglietta che veniva viziata, coccolata da una...

soldi, perché di Moratti non parlate mai? È un altro discorso. Mai, va bene, Luciano, dai, va bene, Luciano, grazie. Grazie, Luciano. Ciao, grazie. Luciano, sono sempre un tuo amico, non ti preoccupare. È per gli amici che mi ritrovo. No. Beh, quando si dice una cosa vera, purtroppo. Certo. Si rimane sempre male. Vabbè, comunque fate pace, dai. Non ma sono... No, ma io non ho niente contro nessuno, per carità. No, per carità. Però ha tenuto il punto, eh. Beh, è certo, Pippo, ha tenuto il punto. Tenuto dice, quello è stato condannato, comunque. Ma anche sto Moggi che telefona, ma che roba è? Ma a me la condanna di Moggi non mi interessa. Certo. A me ha fatto pena, siccome sono tifoso juventino, sì, sì, che la Juventus sia stata condannata e che avrebbe dovuto scontare questa condanna attraverso il purgatorio della Serie della B, Serie B, certo, certo. È un dato che è avvenuto, sì o no? Certo, poi non c'è di chi è la colpa? La colpa è indubbiamente di fatti corruttivi, di elementi distorsivi, di fatti comunque non sportivissimi. Certo, non c'è determinato la regressione. Comunque Moggi interviene al telefono, hai visto, era incazzato nero. Ma giustamente era incazzato nero perché viene sempre preso di mira lui. Secondo me, sì, non sono stato io che ho fatto tutto questo guaio, sono stati in tanti, ma no, il fatto di moltiplicare le responsabilità non esclude la propria. Ah no, questo non c'è dubbio. Vabbè, caro Pippo, ti saluto, presto, ciao. Ciao. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera. Guarda avanti. So già cos'è. Fuori, senza dubbi né buon anno. Padania bella e libera. Vai in Europa. Entra al Parlamento europeo a sparlare a tutte quelle cazzate. Se porti una spigola in Europa, quelli ti prendono a calci dal sedere e ti rispediscono a Vallalosesia. Caro buon anno, le tue giullarate inutili a Bruxelles ti prenderanno per un orecchio e ti accompagneranno alla porta. Tutto per la libertà. Buon anno, la prudenza di oggi. Ma quale prudenza? Davanti alle telecamere di Mattino 5, a un certo punto prende la bandiera dell'Europa. Che si era evidentemente portato dietro, immagino. Beh, direi. Immagino. Non penso che negli studi della signora D'Urso ci sono. No, non c'è la D'Urso non c'entra una mazza. Era il signor, come si chiama? A Mattino 5. Come si chiama quello che conduce Mattino 5? Quello... Il signor Mattino 5 di Bello. No, dai. Grave, non lo sappiamo. Gravissimo. No, non so scordare. Novella. L'amico Novella insieme a Panicucci. Sì. Ma in realtà quello era uno spazio guidato dal signor Novella, l'amico Novella, bravissimo giornalista, il quale a un certo punto imperterrito, cioè fermo, immobile di fronte a Buonanno, basito, bravo. Tutto strappa la bandiera dell'Europa e poi ci si pulisce anche, no, il sedere no, ma il naso, ah sì, si pulisce il naso. Buon anno numero uno, assoluto, sempre. Io voglio dire una cosa, questa è la bandiera dell'Europa, no? Questa è la bandiera. Per me l'Europa come è fatto con clandestini, le banche che comandano, le multinazionali, l'euro che ci sta dissanguando. Buon anno. Questa è l'Europa che vedo io. Vedi l'Europa com'è? Che funziona così questa Europa, no? La fai così e poi l'unica cosa che è capace a fare questa bandiera oggi è che uno si soffia il naso ed è l'unica cosa che può fare, perché l'Europa così fa schifo. Servi di Roma fuori. E poi continua, se non bastasse ho un'altra bandiera. Senti. Ma cosa farà di più? Cosa può fare di più? Inseguirà la Merkel e piscerà addosso alla Merkel, non so che farà. Ma guarda, ma servi di Roma fuori. E se non abbiamo spiegato ancora. Allora, fermo. Lupi, si contenga, buon anno. A me fa schifo. Allora, siccome Lupi. Servi di Roma fuori. Oh, Borghezio dà dei figli di puttana agli economisti. Secondo molti economisti uscire dall'euro sarebbe una catastrofe per l'Italia in un mondo globale. Esatto, sono quei figli di puttana che ci hanno detto che con l'entrata nell'euro avremmo risolto i nostri problemi. Questa è la ricetta di quegli stronzi che dicevano che l'euro era la nostra salvezza. Via dall'euro, via dall'euro. Eccolo qua, sempre, sempre sobrio. Sempre sobrio. Sempre moderato. Sempre a domanda risponde con pacatezza, ragionamenti. Gli economisti cosa sono? Dei figli di puttana. Capito, però. L'altro, strappa le bandiere dell'Europa. Ma vi rendete conto o no? Ma io non lo so. Ma perché? Che è successo? Ma uno, Buonanno, lì strappa le bandiere dell'Europa e si pulisce il naso. L'altro dice che sono tutti figli di puttana. Ma che roba è? Che roba è? È la campagna elettorale, bellezza. È la campagna elettorale, bellezza. E cosa farà di più? Buonanno, cosa può fare di più? Defecare all'Eurogruppo? Andare a Ecofin? E cosa farà? Cosa fa? Ma parla come mangia, Ecofin. Ma che vuol dire? La gente non capisce una mazza di queste cose. Ma la gente deve sapere. Ecofin, ma parla come mangia. Adesso, perché sei andato a fare due giri a Bruxelles per il Corriere della Sera? Ma no, ti sei inventata la lista europea. Ma no, non rompere i coglioni anche tu con questi termini. Basta! Ecofin e altre cose, hai rotto le palle. Ecofin, certo. Ecofin, Ecofin e Pasolini. Sono impazzito un attimo. Il potere falso che ci spreme. Grillo e il culo della Merkel. Senti, questa è spettacolare. Questa è spettacolare. Che ci ha reso schiavi. Noi abbiamo 7 punti, andiamo lì. Fiscal compact, andiamo dalla signora tedesca, la nostra signora, che è dimagrita. Gli si è rimpicciolito il culo a forza di linguate anche dei nostri presidenti dei consigli che vanno là. Andiamo dalla signora Merkel, diremo Abel Zifelein e Glass, Bitte Zuckerbatz, Anzuli con Zeppeto, Michele Calde Zucchero. Gli si è rimpicciolito il culo. Beh, questa è come la colonna inchiavabile, forse peggio. Perché almeno la colonna inchiavabile non abbiamo la certezza che sia stato pronunciato. No? Esatto. Cioè, esatto, è una supposizione, fu un titolo del giornale. Titolo del giornale, però, no? Dunque, possiamo dar credito a questa cosa. Ma in questo caso, Grillo dice. Proprio gli si è rimpicciolito il culo a forza di slinguate, vuole dire, da parte di Renzi e degli altri politici italiani che vanno alla corte della signora Merkel. Che orrore! Evviva la campagna elettorale per europee! Oh, Miranda da Bergamo, Miranda. Buonasera, Cruciani. Ma lei che cos'è? Un uomo o una donna, scusi? Come? Sono una donna. Ah, una donna, mi scusi. Miranda. No. Che mia suocera me lo dice. Ma che ne so io, Miranda. Ecco, ormai ormai non si sa più nulla. Qua. Però quando ho lavorato a lui facevo gli annunci e tutti sarebbero innamorati della mia voce. No, però no, non ci stanno le provocazioni di Cruciani. Sì. Senti, guarda, andiamo a sodo. Sì. Guarda, io volevo esprimere la mia gioia perché hanno acciappato quel brutto mostro di Scajola, che è avvenente. Di chi? Ma chi è che è avvenente? Scajola è avvenente. Però scusa, Miranda, scusa un attimo, dove sei? Col viva voce? No. Con l'altoparlante là che c'hai? No, niente, non c'è niente. Le cuffie, non c'è niente. Vabbè, Miranda, che vuoi dire? Quello schifoso di Scajola, che t'ha fatto Scajola? No, volevo dire, adesso avevo esagerato. Però veramente, guardi, ti è scappato il freno a mano. È rimasta contentissima che l'hanno beccata, guardi. Ma come fai a essere? Perché uno deve essere contento che quello l'hanno beccato? Sì. Spiegami. C'è un po' di gente che è contenta del fatto che l'hanno pizzicato. Ci prende in giro, hai capito, Cruciani? È come lui, tanti ci prendono per il sedere. Chi? Tanti personaggi della politica che sotto sotto fanno i cavoli loro invece di fare i nostri, capito? L'illusione è quella. L'illusione delle persone. Delle persone onesti, capito? Scagliola ci ha preso in giro con questo sorrisino, questo fare. Beh, sorrisi, non è che proprio uno sorridesse moltissimo, Scajola, non era uno proprio quello, no. Si può dire tutto. Tutto tranne che sia uno col volto sorridente, no, come dire. No, secondo me si sbaglia lei. Vabbè, Miranda, arrivederci. Mino da Bergamo, sempre da Bergamo, stasera che è successo? Mino. Sì, ciao. Vai. Pronto? Sì, dimmi. Ascolta, volevo solo ricordarti la promessa che avevi fatto. Cioè? E se Berlusconi faceva i servizi sociali rinunciavi a 6 mesi di stipendio. Ma non mi pare, non mi pare. È interessante. Era settembre-ottobre. Ma non mi pare proprio. Guarda, mi vai non su mi... in povertà, amico mio, questo è buono. Ma figuriamoci, se ho detto una cosa. Ma figuriamoci, se ho detto una cosa del genere. Impossibile. Sì, hai registrato tutto. Adesso vediamo. Puntate. Certamente, se l'ho fatta come promessa, può darsi che la mantengo. Anzi, sicuramente non la mantengo, però vediamo. Ma hai già detto abbastanza. Sì, ma allora io... sei peggio dell'altro. Ma guarda, che io non peggio dell'altro di chi? Di Parenzo? Sì. Ma guarda che, no, caro Mino, ogni tanto nella vita bisogna dire qualche cazzata, altrimenti se uno è tutto, no, ombre vertical sempre al 100%, che è un robot, un essere innaturale. Ma sembra sempre che hai la verità in tasca e poi mi dici che ogni tanto dici le cazzate, ma cioè, quando ne racconti una giusta, questa allora che mi chiedi. Vabbè, quello è un altro discorso. Mino, però tu mi dici una cosa fondamentale. Andiamo a ripescare una registrazione in cui io avrei detto, ma non ci credo, che se Berlusconi andava a fare i servizi sociali io avrei rinunciato a 6 mesi di stipendio, addirittura. Sì, perché Parenzo diceva che non sarebbe stato quasi neanche condannato alla fine. No, beh, questo è impossibile. Vabbè. Poi era il periodo che c'era la scelta, che lui aveva chiesto i servizi sociali oppure i domiciliari. Sì, sì. Tu hai detto, ma figurati se va a fare i servizi sociali, se lo fa 6 mesi di stipendio li do in beneficenza o ci rinuncio. Adesso le parole esatte. Vabbè, vediamo, ricordo, controlliamo. Mino, non ti preoccupare, controlliamo. Ci sarà ancora qualcuno che ha sentito. L'avessi detto, comunque, sicuramente manterrò la promessa. Non manterrò la promessa. Come? No, no. Almeno un mese. No, almeno l'ho un detto, mese. Se l'ho detto, non mantengo la promessa. Almeno un mese. Ma devi darlo. A me mi servono i soldi, io. Franco, come da Roma. Mi servono i soldi, ma che sei, certo, Previti? Mi servono, certo, i soldi. Franco da Roma. Ma scusami, Renzo Piano. Che ha fatto Renzo Piano? Franco, questo, fammi sentire Franco. Bellissimo viaggio da Roma. Di Francesco Merlo con Renzo Piano in giro per Roma. Ma scusa, ma vogliamo mandare un pezzo di audio? Ma non deve fare il senatore, sì, no, Renzo Piano. Però aspetta, c'è stato questo Franco viaggio da Roma, bellissimo, ma non me ne frega nulla della capitale. A me quello che fa Renzo Piano non mi interessa. Descrive come dovrebbe cambiare la metropoli. Benissimo, molto bello. Facesse il consulente per Marino, per qualcun altro, Franco da Roma, scrivesse gli articoli sui giornali. Manda un pezzettino di audio di Renzo Piano che ti spiega come cambierà la urbe. Ma non me ne può fregare di meno, Franco da Roma, dai. Franco, ride. Sì, buonasera. Franco. Vai, dimmi. Buonasera. No, volevo dirti 3 cose serie. Sì. Grillo, veloce, dai. Devi consigliare Grillo a non andare da Vespa. Io consigliare Grillo a non andare da Vespa. Ma già gliel'ha detto. Anche perché io ieri l'ho incontrato, oltre che lo conosco dal 1970, l'ho incontrato anche a Messa. Sì. Ecco, con chi? La scorta. Chi ha incontrato? Ma chi ha incontrato? Vespa. Vespa, sì. A Messa non è un crimine andare a Messa, innanzitutto, ecco. Primo, secondo, l'ho visto a Messa, non è che andrà visto a casa di Totorina, sì, scusami. Sì, no, ma per dire, no, l'ho visto a Messa e con la scorta, ecco, mi sono meravigliato. Con la scorta, c'ha la scorta Vespa, vabbè. Parenzo? Può darsi che sia stato minacciato, non lo so, la scorta, non mi risulta, no, però. Non fa niente, questi sono i soldi nostri, comunque. Poi volevo dirti un'altra cosa. A Beppe Grillo di consigliare di non andare. Sì. Perché perderebbe voti. Perderebbe voti, non lo so, guarda, sì, mi sembra molto difficile perdere voti per... Già l'ho detto, mi fai parlare? Sì, parla. Questo già l'ho detto, a Casini. Io ho scritto a suo tempo, perché io ero dell'UDC. Sì. Ecco, io ho scritto non andare più in televisione e a Ciocchetti stesso, sì, non mandarlo più in televisione. Ma non è che il consiglio dato a fine al 2%. Consiglio dato a Ciocchetti, caro. Io ti vorrei fare. No, a Ciocchetti, non a Ciocchetti. Ma ti vorrei segnalare questa cosa. Qua. A Casini. A Casini. Bene. Ciao Franco, Benedetto dalla provincia di Ferrara, grazie. Benedetto. Buonasera. Dimmi. Volevo intervenire più che altro a scoppio ritardato, perché volevo intervenire per un argomento di venerdì. È uguale, qui non ci sono argomenti di venerdì, sì, di domenica, capito, eccetera. Calma. Il discorso era questo qua. Ci sta che siete una bella coppia di comici. Ma comici ogni tanto, più Parenzo, no, che sono sottoscritto. Sono d'accordo con Nino D'Angelo quando vi ha chiamato coppia di comici, sono perfettamente d'accordo con Nino D'Angelo. Vabbè, allora? Allora, ogni tanto... magari fate anche un po' di informazione, consiglio ai radioascoltatori di andarci a vedere su YouTube un programma bellissimo di presa diretta, sì, che ha fatto un servizio bellissimo sulle stampanti 3D. Sì, ho capito, questa togliere... storia delle stampante 3D va benissimo. No. Allora, con le stampanti 3D... ma io non voglio neanche aprire l'argomento, io sto solo dicendo, se magari ogni tanto... fate un po' di informazione, ha fatto un servizio bellissimo di che cosa sono, come funzionano e quello che potrà essere il loro sviluppo. Benissimo, a me non me ne frega niente, che me ne frega però del fatto che Beppe Grillo mi esalta le stampanti 3D che fanno anche le case, tanto non si potranno costruire le case, tutte le case col 3D. Mi hanno spiegato oggi che le stampanti 3D di una certa generazione, quelle grandi, possono costruire le case di 100 metri quadrati, però insomma di che parli, di che stiamo parlando? Cioè, di cosa no, faccio solo un piccolo esempio. Dai, sulle stampanti in 3D che costruiscono le case, ma di che stiamo parlando, dai. No, ma il concetto qual è? Che se potessero fare, cioè, comunque stanno progettando per fare le case. Ma tra l'altro questa cosa qui, questa cosa... sai quante morti ci sono sui cantieri edili. Sì, però questa cosa qui va anche contro quello che dice Grillo sull'occupazione, perché più hai le stampanti 3D che fanno le fondamenta e fanno le case al posto dei cantieri, più diminuisce il numero di operai. E Grillo non è quello che pensa che bisogna dare il reddito a tutti, eccetera, eccetera, reddito di cittadinanza, protesta per la disoccupazione, eccetera, eccetera. E Grillo è questo, dunque, più stampanti, meno occupati. Siamo come lei, siamo come lei. Nel meridione io ho fatto campagne elettorali e poi mi sono segnato su 10 signori anziani a quanti visibilmente mancavano dei denti, 5 su 10, e 1 su 10 mi mancavano tutti i denti e naturalmente soffriva anche di stomaco. Bene, noi possiamo garantire l'impianto dei denti a spese dello Stato a tutti gli anziani che non abbiano risorse sufficienti per pagarselo loro. Grande ritorno un anno dopo, Michele Boldrin alla Zanzara, buonasera. Ciao ragazzi, come va? Anno dopo, un anno e qualcosa dopo. Un anno e qualcosa, eravamo praticamente alle elezioni di febbraio. Abbandonato. Quello no, che c'entra, ti abbiamo chiamato nel pieno della vicenda Giannino, oggi è un'altra storia, ti presenti insieme a Scelta Europea alle elezioni europee, ma da chi è fatta sta scelta europea? Scusi, innanzutto stai con il signor Tabacci, uno del Centro Democratico mi sembra, no? Poi c'è una parte di Scelta Civica, mi sembra, quelli che non sono andati non Montiani. Esattamente. Beh, quello che ho provato a fare è fare il fuoco con la legna che avevo. E siccome mi dispiace, Giuseppe, c'è proprio bisogno ancora di una cosa che assomigli a fare per fermare il declino, una banda di liberali seri incazzati che vogliono cambiare il mondo. Dovevo tenere in piedi questa cosa qua e con gli altri ci abbiamo ragionato e gli hanno detto: beh, alla fin fine il Centro Democratico di Tabacci e il gruppo di Scelta Civica che è rimasto, non c'è più Monti è andato, è storia passata, a Monti che è ormai un cadavere, ha criticato tutto ciò che Monti ha fatto e pensato in quei due anni che è stato lì, era la cosa più ragionevole, anche perché poi Walde, cioè i liberali democratici, questo Guy Verhofstadt che è un vero figo, mi sembrava il tipo giusto da appoggiare. Vabbè, ma quanto state ai sondaggi, amico mio? Ma qua c'è Grillo che vola, voi a quanto state nei sondaggi? State bene? Grillo vola, siamo tutti bravi a volare come Grillo, come quell'altro che promette denti gratis a spese degli altri per tutti, capisci? Mi ricordo la vecchia battuta. Qual è la vecchia battuta? Cioè, Grillo... non la dico. Pane e companatico, pane e companatico a spese di pantalone per tutti. Ma non era questa la battuta, che è una battuta questa? Questa è la versione elettorale, che devo pure fare anch'io il candidato alle europee. Appunto, fallo alla Grillo almeno il candidato alle europee, cioè, un voto non lo becchi. Ma guarda, Grillo io lo capisco, da un lato sempre di più e dall'altro sempre meno. Per in che senso, scusa? Io capisco sempre di più la gente incazzata, la gente che non è più l'Italia, altro che uscita dalla crisi, sì, lo spread è calato, ma la situazione è tremenda, da 20 anni e adesso i nodi arrivano al pettine. Quindi che la gente abbia sempre meno fiducia, specialmente chi lavora, paga le tasse, produce, sempre meno fiducia. Ma secondo te Berlusconi piglia qualche scusa? Da Renzi a Berlusconi, io lo capisco. Io non capisco come, ma forse è colpa mia, forse è colpa nostra, siamo degli imbranati. C'è chi vota Grillo, che secondo te? La gente creda che le proposte di Grillo sono la soluzione. Cioè, se Grillo andasse al potere per l'Italia cosa sarebbe? Un disastro, una roba una roba da manicomio? Non ho neanche idea cosa farebbe, da scie chimiche ai referendum sull'euro, come se l'euro fosse il problema. Appunto la contraddizione che appena ti ho sentito scherzare sul 3D, sulle stampanti, sulle 3D e l'occupazione. Questo vuole dare il reddito a tutti. Bravo, diamo il reddito a tutti e chi lavora per produrlo? Bah, che ne sappiamo? È tutta una follia. Per cui chi vota Grillo... Che la gente è cazzata, che la gente vuole reddito, non bisogna fare le cose vere. Sì ragazzi, però cerchiamo di migliorare sto collegamento, che non si sente la mazza. Ma dov'è Boldrin? Aspetta, America, dov'è? Sembra di stare in una sorta di coso. Un attimo solo, Michele, che ti richiamiamo. Alessandro da Bari intanto. Buonasera Cruciani. Dimmi Alessandro. Allora, volevo intervenire a proposito della scommessa che lei aveva proposto, i 6 mesi di stipendio ai quali avrebbe rinunciato. Volevo rettificare, praticamente lei aveva detto se Berlusconi ai servizi sociali andava a pulire il culo o a togliere il catetere dagli anziani. Ah, ecco, meno male, grazie Alessandro, Non era stato così vago sui servizi sociali, era stato lo specifico. Infatti volevo brevissimo, volevo spiegare del perché tutto questo odio nei confronti di Scajola da parte degli italiani. Ma non è che nessuno odia Scajola, ma che vuol dire odio? Ci sono delle cose che sono... Gli italiani lo odiano, e le spiego perché. Per la faccenda della casa fu una presa per il culo così colossale che gli italiani si sentirono insultati in quel momento. Secondo me è così. Beh, ma per quella cosa è stato assolto, per cui non è quello il problema. Ma non è una faccenda giudiziaria. Però lui dice è rimasto impresso semplicemente il potente di turno che, siccome è stato beccato, secondo l'accusa, per aver aiutato uno a fuggire, un ex parlamentare a fuggire, allora la gente è arrabbiata e dice ecco il solito potere. Ma non è che dice quello della casa. Non è quello. Secondo me lo associo alla faccenda della casa, perché io girando e sentendo i pareri della gente, le ultime accuse passano quasi in secondo piano rispetto a quell'insulto alla nostra intelligenza. Vabbè Alessandro, però la prossima volta che chiami o chiudi la radio oppure vengo lì e ti strozzo con le mie mani fino a Bari. Cioè non è che uno chiama dopo anni di zanzara, interviene e non sa che deve spegnere la radio. E che cazzo, su Alessandro, o no? E che Bruno dalla provincia di Bologna, dai. Bruno? Niente. Sì, Elio? Sì, dimmi, dai. Sì, mi senti? Ti sento, dimmi. Allora, scusami, stavo visto che dalle 6:30 non aspetto, vabbè, mangiavo qualcosa. Vai Bruno, che hai mangiato intanto? Che hai mangiato? Una casottina qui della zona di Bologna, anche se sto di Roma, è una vita che sto qui, però fanno dei prodotti veramente buoni. Comunque, e bevo anche il prosecchino. Vabbè Bruno, alla senti, un attimo, prendite, mangia dalla caciottina, bevi del prosecchino e noi continuiamo, Ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Dudu, ma non dovevamo vederci più, Dudu. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. Dudu, ma non dovevamo vederci più, Dudu. Sentite Berlusconi sull'Expo, c'è molta aria fritta. Funziona così in tutto il mondo con gli appalti. C'è molta aria fritta dentro, e perché in tutte le cose, quando ci sono di mezzo dei lavori e degli appalti, ci sono le telefonate, ci sono i tentativi di avere una raccomanda. Questo è la vita, questa non è soltanto l'Italia, ma è quello che succede in tutto il mondo. Quindi non dobbiamo nemmeno esagerare e scandalizzarci se c'è qualcuno che dice ti presento a questo. Poi molte cose sono millantate e non sono vere. Però la più bella è il Mahatma Gandhi. Ma la cosa più incredibile però che mi fa impazzire è la nomina di Cantone. La nomina di Cantone a responsabile di non so che cosa sull'Expo. Ma non ci sono già i magistrati, i controlli sugli appalti, però, ha già avviati, certo. Ma a che serve una nomina in più? A parte che cosa serve il commissario anticorruzione in generale? Cioè queste nomine assurde, il commissario anticorruzione, ma che stracazzo serve? Diciamo che dovrebbe essere, mentre ma la magistratura non serve a nulla, ha i suoi tempi. Ma non serve a niente, Cantone ci sono i magistrati. Dovrebbe, ma questo è importante. È un consulente, però. Ma è importante no, di che? Dovrebbe ma è stare nomina... là e vedere in tempo reale. Ma dai, ma non le diciamo cose puttanate, no dai. Questo dovrebbe essere, no, però voglio dire, poi si può criticare tutto. Scusa, Boldrin, mi vuoi correre vieni in soccorso per favore, Michele, scusami, sono qua, sono in soccorso. Allora io dico una cosa, d'accordo. Ma dai, noi abbiamo chiesto un commissario, ma il commissario deve essere uno anzitutto che sa fare le cose. Questo è anticorruzione, mica sa gestire l'Expo. E poi francamente sì, le frasi di Berlusconi, tutto il mondo è il paese, col cavolo, tutto il mondo è il paese, tutto il mondo rovinato è paese dove c'è la corruzione in ogni affare pubblico, ci sono dei paesi dove funziona. Noi abbiamo detto mettiamoci un commissario, ma uno che sa fare le cose, uno che ne ha fatto un'altra Expo, dobbiamo andarcela a cercare in giro per l'Europa, qualunque essi sia, basta che sia una persona per bene, di provata capacità, che le cose le ha fatte. Non il magistrato che indaghi i corrotti, sì. Ma di sicuro non sa organizzare l'Expo. Però, un'altra tipica politica buttata di Renzi, tanto per farsi pubblicità, e la sostanza non cambia. No, questo è vero. Anche a me questa nomina di Cantone, così su due piedi, visto l'inizio, no, dell'inchiesta giudiziaria, che poi non si sa bene dove può portare, può darsi pure che veramente sia aria fritta, come dice Berlusconi, può darsi pure che sia aria fritta, non si sa mai. Certo. Cioè, le inchieste, usai Michele, no? Cioè, possono iniziare e poi finire come in Italia nel nulla. Cioè, un'attività che magari no, si può pensare come criminale, magari è semplicemente un'attività di lobbying, la solita attività italiana, certo nascosta, ma può essere tranquillamente un'attività di lobbying. Bisogna vedere se ci sono le mazzette, se non ci sono le mazzette. Certo, certo che ti preoccupa vedere spuntare i nomi di sempre, no? No, quello che mi preoccupa è il fatto, purtroppo, quello che mi preoccupa è il fatto che ogni grande avvenimento in Italia, innanzitutto, si arriva in ritardo con le opere. Molte di queste opere non vengono fatte e soprattutto ogni grande avvenimento. Per questo, per la corruzione. Ma non solo per la corruzione. Ma come no? Per le procedure intricate, ogni le gare d'appalto. Ogni volta che ci sono grandi manifestazioni o grandi avvenimenti che purtroppo l'Italia ottiene, dico purtroppo l'Italia ottiene, alla fine si va in ritardo, le procedure sono infinite, ci sono lotte tra fazioni politiche, si fanno meno opere di quelle previste e poi soprattutto perché c'è bisogno di un grande avvenimento per fare le opere? Le opere dovrebbero essere fatte normalmente se ce n'è bisogno. Certo. Non è che uno prende spunto dall'Expo questo però e poi si costruisce in tutta Milano per 3 anni e non prende i coglioni alle persone. No, ma questo dappertutto è così, non che è vero, le grandi opere tutto. In tutto il mondo sono stimolo per fare delle cose che sennò non si farebbero. Questo non, è vero. Poi dipende, delle volte sì, delle volte no, negli altri posti gli aeroporti li fanno comunque. Sì, dai, anche è così. Senza aspettare le grandi, le metropolitane le fanno lo stesso, dai. Certo, d'accordo. Le metropolitane si fanno uguale. Allora siamo con Michele Boldrin che si candida con Scelta Europea. Certo che mi dicono ti sei messo con Tabacci, arnese. Questa l'abbiamo già fatta, adesso facciamo il dai, con Tabacci su, Boldrin. Che cos'hai con Tabacci? Anzi, siamo sola, Tabacci, guarda. È roba vecchia, su, ma è roba vecchia, è vero, però è vero, è meglio di tanti altri, poi non vedo tanta roba nuova fuori. In giro, ma Tabacci no? È il numero uno. Ma poi mi sembra, mi segnalano che tu sfanculavi Tabacci in TV un anno fa, Cioè, ma mi segnalano sulle cose su cui non siamo d'accordo, continuano a non essere d'accordo e spero tanto che cambi idea lui. Ecco qua, cioè, mi hanno mandato un bel video in cui tu eri contro Tabacci un anno fa. Sì. Dai, su, pure tu ti sei messo. Ma era su un tema specifico, non ero d'accordo. Non so se ha cambiato idea lui, io di sicuro non ho cambiato idea. Io continuo a pensare che le ferrovie dello Stato le possiamo privatizzare, le poste pure, farle funzionare meglio. Senti, Berlusconi, come lo dipingi? Che tipo di campagna è una cosa penosa? Scusa, ma non voglio che lo dipinga Berlusconi, a me sembra l'eterna tragedia, il segno della degenerazione, non ho capito perché diavolo dopo i fallimenti e le prese in giro di quest'uomo per 20 e passa anni noi continuiamo a far finta che possa dare qualche risposta al paese, non so che altro dire, basta guardare i fatti con Berlusconi, lasciamo stare le inchieste giudiziarie, basta guardare i fatti, ciò che ha fatto per il paese, Qualcuno parla. Ha fatto nulla, ha fatto solo disastri. Qualcuno parla di un partito di criminali, non so chi, perché dopo questa ondata di arresti, tu sei d'accordo con questa definizione, un partito ma di... Ma no, non lo so, ma sai, definire uno criminale o lo fai come battuta, però va bene, ti sembra un po' poco per bene ed è una battuta. Ma se Berlusconi che cos'è? Se definire uno criminale bisogna anche condannarlo. Sì. Oddio, a Berlusconi è successo, no? Quindi lui l'hanno condannato, ma il problema non è se il partito è tutto di criminali, non fai mai di ogni erba un fascio. Ripeto, guardiamo a come si comportano, a quello che hanno fatto e a quello che adesso propongono. A quello che propongono. 1.000 euro per i pensionati. 1.000 euro per i pensionati. Il dentiere gratis per tutti, così è la soluzione, dai. Soprattutto 1.000 euro per i pensionati, che mi sembra una cosa straordinaria, dove troviamo i soldi non si capisce. Sì, siamo tutti bravi a regalare, anch'io. No, io non voglio 1.000 euro per i pensionati, io voglio 1.500 e voglio andare tutti in pensione a 40 anni, poi i soldi chissà dove li troviamo. Senti una cosa, invece gli 80 euro di Renzi, che mi sembra una cosa interessante, io lo trovo una roba veramente alla Achille Lauro, l'ho detto più volte. Bravo, mi ha imitato, anch'io. Ma penso che non ci sentiamo, dato esattamente la stessa definizione. Ma come, tu sei anche uno che dà fiducia a Renzi, cioè, o no? Ma io gli avevo dato fiducia a Renzi, mi sta deludendo ogni giorno. Perché? Perché? Ma perché la ragione che ha appena detto, guarda, che ci sia il caso di fare una riforma fiscale, che occorre ridurre le tasse su chi lavora, su tutti quelli che lavorano, che occorre ridurre anche di più e maggiormente su chi prende di meno, sono assolutamente d'accordo, ma si fa bene, si fa come Dio comanda, non si fa sotto le elezioni, non si fa una tantum, non si fa, cioè bisogna fare una riforma fiscale seria, ancora peggiore, capisci? E soprattutto non lo si fa solo per una parte dicendo beh piuttosto di niente meglio piuttosto, no, non è vero, proprio non è vero. Senti, non so ma la pensi tu, ma io la penso così. No, ma io la penso allo stesso modo. È Parenzo però, che insomma, pensa no, però, che invece infatti... questi 80 euro daranno no, un sollievo io penso in ogni che 80 caso. 80 euro fissi. Non sono 80 euro perché vabbè, hanno abbassato d'accordo. Quelle tasse lì. Saranno 70-60. Hanno alzato le tasse di fatto. Però Michele, gli 80 euro... Sì, ah, così. In Veneto e molta gente anche di reddito medio basso alla fine in tasca gli verranno 10 euro ed alcuni gliene vengono anche ah, di sì, meno dai, è così. È una cosa assurda, i sistemi fiscali si semplificano, poi se non taglia le spese Renzi non potrà mai tagliare solo le tasse. Che dal punto di vista della comunicazione è passata questa ma cosa non no, perché c'è questo atteggiamento di 20 euro meglio di niente, no non è vero, proprio non è vero, guarda il paese ha bisogno di altre cose, per quello mi ha deluso. Senti una cosa Parenzo, tu che dici, scusa, che sei sempre un difensore di questi 80 euro? No, ma infatti io volevo dire semplicemente a Boldrin che capisco lui che è il grande liberale e nella pratica ha ragione, dopodiché siccome questi non sono una tanto ma sono sembrano strutturali vaglielo a dire tu caro Michele a quelle famiglie che riceveranno questi 80 euro al mese e per sempre fino a quando diciamo non cambiano le condizioni economiche che ne possono ma fare che a meno. Ma vuol dire? Ma se dopo... Ma dire... detto questo devi non fare della demagogia anche tu, anzitutto non è proprio vero che siano strutturali, adesso lo vediamo, ma proprio non lo è al momento, mi dispiace, adesso andiamo avanti a dire sì no. No, beh, sono previsti, non è che li per ora, non è che li danno una volta e poi addio. Al momento è così, vale per quest'anno, poi vedremo. Ma in secondo luogo, non si può fare continuamente del populismo così. Io prendo un tot di famiglie, gli do o gli faccio avere dei soldi in più. Ripeto, per la grande maggioranza di questi non è nemmeno 80 euro al mese, è meno perché, ti ripeto, hanno eliminato le detrazioni, ok? Per finanziare questa cosa. E le altre... Le altre famiglie c'è una discriminazione, tutti certo. Vuole no, ma su questo il sistema, vuole fare un ma siamo d'accordo, a ma 5-8 milioni di persone così questi sono contenti. Cioè, e governare fa sta roba qua. Ma è ovvio che fino a quando non cambiano io passo per il paese, butto un po' di carne, chi la piglia e poi mi dice "Ah, no, vabbè, ma sai, quelli che l'hanno pigliata la bistecca, vagli a dire che devono far senza". Ma dai, ma maniera di governare. È come buttare in pasto ai cani così della carne, prendete, vengono 8 milioni di persone, prendono sta carne, la portano a casa, la cucinano. Ha ragione Boldrini, okay, Parenzo, inutile. Ok, ma che significa diglielo a quelli? In attesa di vedere ha ragione Boldrini, ci vogliono delle riforme strutturali, se ne parla da 20 anni. Ora in attesa di questa roba qui, meglio un governo che comunque ti dà 80 euro. Io voglio che le faccia, si è preso il posto di primo ministro a Palazzo Chigi perché ha promesso che cambiava il mondo. Non per fare o dare 80 euro a... Intanto ha detto faccio le riforme sul mercato del lavoro, approvo, faccio un pacchetto di riforme sul mercato del lavoro, ma capito, poi può piacere o non piacere. E in più le riforme si fanno subito, non si fanno, non possiamo finire tutto un paese mi pare che vive da 25 anni, da 30 anni, è una cosa che esiste. Tra un po' muoio in attesa. Va bene, caro Michele, a presto. Grazie. Ciao, scelta europea, mi raccomando. Ma no, vabbè, che ce frega a noi. Ma scusami, non ho capito, ma tu in America, nella tua casa meravigliosa, quanti metri quadri era la tua casa in America? Tanti, perché? Quanti era? 700, quanti era? Sì, cosa quanti era? Questa l'hai saputo in privato, non me lo so. No, che privato? No, ce l'hai detto nello spettacolo. Cosa vuoi sapere della mia casa in America? No, ce l'hai detto in quello spettacolo teatrale che abbiamo fatto insieme. Un anno fa ormai. Un anno fa, quant'era? 700, quant'era? 700 metri quadrati, quant'era? Sì, una roba del genere. Quindi... Beh, stupendo. Perché nel sogno americano. Perché tutti vogliamo essere Boldrin. Boldrin, portaci l'America in Italia, ti prego. Portaci l'America in Italia. Io la porto l'America, guarda, non è tanto difficile. Poi l'America mica è il paradiso, c'ha delle cose buone, impariamo. Quanto pagavi, dici? Cose buone anche degli spagnoli, dei francesi, Quanto pagavi, dici? Quanto paghi, dici? Quanto pago dell'analogo, dici? Una cifra gigantesca, pago 12.000-13.000 dollari all'anno. 13.000 dollari. Da quelle parti lì le tasse spadano. L'America in Italia. Sì, voglio l'America in Italia. Con quelle tasse lì pago le scuole, pago la pulizia urbana, la nettezza urbana, hai capito? Vabbè. Se le gestisce il comune, io so dove le spendono. Vabbè, senti, ma quelli che sono vogliono uscire dall'euro, cioè Salvini, questi qua della Lega, che sono? Imbambiti, rincoglioniti? No, non sono imbambiti, purtroppo sono quelli lì sì che sono furbi e in malafede, perché hanno fatto disastri, Salvini per primo con la sua Lega, col suo Bossi, con tutte le cretinate, boiate, fallimenti che ci hanno tirato dietro in 20 anni, lasciamo stare poi i Belsito e compagnia, adesso siccome si vergognano, hanno paura, stanno illudendo di nuovo la loro gente, quelli che li ascoltano, che tutta quel dell'euro e si sono inventati questa gigantesca cortina fumogena e continuano a urlare qua stavamo meglio quando eravamo a lira, ma dove? Per cui sono dei mistificatori, era meglio addirittura... Ma certo che lo sono, perché lo sanno benissimo che se vincessero e dovessero cercare di andare fuori dall'euro sarebbe un disastro, questi si prendono i voti con una promessa folle, poi se li tengono in saccoccia, prendono lo stipendio parlamentare europeo, tanto come sappiamo Salvini a Strasburgo non ci andava mai. Beh, lui dice di no. Si tengono il loro potere facendo l'assoluto nulla. Sono capaci tutti e promettono il paradiso in terra, tanto il paradiso non verrà. Cioè l'uscita dall'euro. Va bene, Michele, ciao, a presto. Ciao, ciao, ciao. Grazie a tutti, buonasera, ciao. Buon lavoro. Che le odio le zanzare. Ci massacrano. Le zanzare. A 25 anni Stella dice: 25 anni Stella, ho sconfitto il precariato facendo la prostituta in Svizzera. Facevo l'impiegata a 1000 euro al mese, sbuffavo ad ogni carta, adesso guadagno più di un magistrato. Sei un modello però. Beh, come non è un modello? È un super modello. Ma cosa? È un, la legalizzazione della prostituzione. Sì, ho capito, ma non è che adesso... Quello 6 giorni diventare... in Svizzera e uno mi in Italia. Mi sente quello che dice: non trova lavoro, non trovi, certo, lavoro, ma vada a fare la prostituta. Beh, ma che, cioè, c'entra? Sembra così, eh. Ma non ho capito perché, sì, qual è il problema? Scherza. Di qual è il problema di fare la prostituta? Scusa, ma come? Spiegami. No, non è un problema. Hai un problema? Però... Hai un problema morale? Come lo... Ma assolutamente e no, allora, figuriamoci. Lo sai però quanto guadagna la media dire... del guadagno mensile di una prostituta in Svizzera? Lo sai quanto? Mi pare di capire se è superiore a quello di un magistrato, sarà più di 5.000 euro. Comunque, il tarifario sai qual è? Sei mai andato a puttane in Svizzera? Sei mai andato a prostituta? In generale, 80 euro per mezz'ora. 80 euro per mezz'ora. Però, ma quando andai andato, io, sì, sono andato in Svizzera, sono andato. Conosca bene, diciamo, no, la sono andato una volta dei tarifari delle signorine, no, dal nord, vabbè, al sud e anche con delega all'Europa, e pure la delega all'Europa. Ma che c'entra la delega all'Europa? La delega. Scusa, che c'entra? Nella conoscenza del tarifario della prostituzione. Ma no, hai la delega all'Europa. No, anche. Ma il tarifario è semplicemente quello di 80 euro per mezz'ora. Io mi ricordo che quando andai anni fa a Zurigo, ci fu il tariffario, era di circa una settantina di euro, 60, ecco, che aumentato di poco. Ti davano anche l'asciugamanino poi? Certo, assolutamente, una cosa meravigliosa. Il succhino di carota ti davano poi? No, anche certo, se volevi c'avevi il succhino di carota, sì. Vabbè, che schifo, guarda. Perché? Ma che porcheria. Ma perché? Perché stai dicendo, perché no, perché seriamente mi fai arrabbiare. Questa signora, la testimonianza di questa signorina che dice: guadagnavo 1000 euro, ora guadagno più di un magistrato. Certo. Cioè, ma l'alternativa non può essere quella, ma non capito? È l'alternativa per e tu sei tutto felice, capito? Certo. Sei tutto felice. Cioè, una non trova lavoro, guadagna poco, perché nel suo lavoro, nel quale dovrebbe guadagnare di più, guadagna solo 1000 euro e tu gli dici: ma vada a fare la prostituta, è un modello. No, non è un modello, non è un modello. Ma non ho detto che è un modello in assoluto. No, prima mi hai detto che è un modello. Io dico: lei no, dice il mio corpo e la mia azienda, tutto qui. Se c'è qualcuno, vabbè, sfruttato, quello è il cliente che deve pagare per avere l'illusione di stare con me. Io vendo fumo rosa. Ma è meravigliosa questa roba qua. Se gli piace così, lo sfruttato c'è la libertà, è lui. Lo bene. Sfruttato è lui. Ma questo bisogna inculcare: che la prostituzione è un lavoro come un altro, come fare il conduttore radiofonico, come fare lo scrittore, come fare l'intellettuale. Siete voi che avete i pregiudizi. Fare la prostituta, la zoccola, fare la mignotta è la stessa cosa che fare il dirigente sportivo, ma che fare dirigente politico è uguale, è uguale. Non è proprio uguale. Ma è esattamente la stessa cosa, perché bisogna finirla con questa ipocrisia. È esattamente lo stesso. Non è proprio uguale, guarda. Non è proprio uguale. Andiamo a Genova, Elio. Buonasera. Senta, riguardo la campagna elettorale di Berlusconi su denti e dentiere, e penso che probabilmente Berlusconi sia alla ricerca di compari di portare al governo. Infatti è noto che un ascoltatore peraltro mi scrive: e Beatrice al Bar Oceano in Svizzera, non so perché conosca il nome, anche il Bar Oceano in Svizzera, uno dei più dei bordelli più conosciuti, eccetera, guadagna 12.000 franchi o 10.000 euro al mese. La signora Beatrice al Bar Oceano, credo dalle parti di Lugano, là nei dintorni di Lugano, 10.000 o 12.000, 10.000 euro, 12.000 franchi svizzeri, capito? Ma che c'entra? Ma sì, ma si sa, voglio dire, quelle sono le tariffe per chi fa questo mestiere. Sto dicendo, di lusso col corpo. Sto dicendo che no, perché la notizia iniziale è quella che tu hai. Lei notizia ha sconfitto la il precariato facendo la mignotta. Ecco, esattamente. Tu dici bellissimo, bellissimo un corno, perché in realtà una precaria che guadagna frustrata per anni 1000 euro, a un certo punto dice: vabbè, io vado a fare questa cosa. Cioè, non è bello, capito? Non è un bel mondo. Ma non è che lei l'ha fatto piangendo, cioè, l'ha fatto, l'ha fatto un po' per disperazione anche. No, però, perché ha capito, perché che non aveva non aveva un'alternativa a quello, non aveva un'alternativa, certo, a quella cosa. Certo, è chiaro cosa, che chiunque preferirebbe non non scopare tutto il giorno con delle persone che non ti piacciono, piuttosto eccolo ho capito là. Ecco il punto. Però a un certo punto eccolo ci si abitua anche a quello, no? Ci si abitua anche a quello. Non voglio un paese in cui ci si abitua a questo. Mamma, va bene? Mia, non che voglio moralismi un inutili. No, non è moralismo. Che non moralismi voglio un paese inutili. In cui ci si abitua a questo. Che ecco. Moralismi esattamente inutili. Questo che io non abito volevo. La prostituzione non può scomparire, capito? Non può scomparire. Ma che c'entra? Ma io non voglio un paese ed è meglio in cui che ci la si faccia consapevolmente. Ma certo che è normale. Io sono laico, liberale, libertario, liberista, Elio, tutto quello Elio, che vuoi. Vai. Ma non voglio un paese in cui ci si abitua a questo. Elio. Pronto, sì. Allora, vai. No, niente, volevo dire riguardo alla campagna di Berlusconi sui denti. Sì. Cioè, penso che hai bisogno anche tu? No, no, assolutamente no. Io penso che lui sia alla ricerca di compari da portare al governo. Infatti noto che chi ha un apparato dentario che funziona bene e quindi può mangiare molto ha ottime chance per governare. Per cui quando penso che ci sia dietro sto discorso perché... Vabbè, questa è una battuta, ma una puttanata. Dai, Simona da Siena, dai, Simona. Eccomi qui, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Di che contrada è lei, cara? Io? No, io sono trapiantata, sono una fiorentina trapiantata. Niente. A Siena per lavoro. Vabbè, allora? Quindi... Niente. Allora, volevo dire una cosa su Boldrin prima. Sì. Allora, io penso, lui ha sparato un po' contro il Movimento 5 Stelle, però penso ci vorrebbe un po' meno di ipocrisia. Quando uno si presenta con un politico come Tabacchi... Dai, su, di che stiamo parlando? Sì, sì. Dai. Ma ha ragione Simona, ma ha ragione Simona, dai. Ma che vi ha fatto Tabacchi? Io non capisco. Dai, su, allora, c'aveva 40 incarichi a un certo punto al Comune Tabacchi. Di Milano, dai, su, ragazzi. Allora, uno che si presenta, un politico come Tabacci, che sparava contro i piccoli imprenditori, i piccoli artigiani, contro la... Ma adesso questo non lo so, Simona, sparava sì, contro sì, questo... te lo dico io, te lo dico. Vabbè, io, ma... lo seguo bene, da piccola imprenditrice. Beh. E poi si è accompagnato con una signora che ha evaso praticamente non so quanti milioni di euro sì. A Roma perché non ha denunciato tutti gli appartamenti che aveva. È stato fidanzato, è stato il compagno di una che poi è stata accusata di evasione fiscale sugli appartamenti. Sono ipocriti. Io ma penso ipocriti, poi... la responsabilità è sempre personale, cara la mia amica da sì, va bene Simona, mia ho capito benissimo, grazie. Ho capito. Ma lei è sposato, no? Mi sembra di aver capito. Ero, ma non importa. Lei che cosa fa sua moglie, no? Sì, ma la responsabilità... Io non credo che lei non lo sappia. No, vabbè, ho capito, ma se sua moglie... La responsabilità è sempre personale. Se sua moglie ammazza qualcuno, mica è colpa mia. No. Oh, ma che dai, io, se sto con una persona che ha 50 appartamenti e non ne dichiara uno, penso di saperlo. Ma io mica sono tenuto a sapere tutto quel che fa nei suoi conti correnti. Oh, ma di che parliamo? Io la penso così. Forse la penserò diversamente da voi, magari sbaglio, però io la vedo così. Va bene, grazie. Luca da Roma. Pronto? Sì, dimmi Luca. Allora, volevo brevemente dire che questa cosa della dentiera di Berlusconi mi ha ricordato, ma avevate accennato anche voi, mi sembra, sì. Il famoso paio di scarpe di Achille Lauro, che prometteva un paio di scarpe, una ne dava prima del voto, una scarpa sì. E l'altra dopo il voto, perché bisognava vedere se l'avevano votato tutti, no? Allora potremmo fare così, la dentiera mezza, la parte sopra prima del voto e la parte sotto invece dopo. E poi sì, ma non sono le elezioni nazionali, qui sono elezioni europee. Che senso appunto. Ha proporre dentiere gratis per tutti, che in parte ci sono vabbè, anche Berlusconi, è fatto che sì. Vabbè. E poi sull'euro, ecco, l'euro adesso per gli euroscettici è quello che secondo me gli ebrei erano. Aspetta, dobbiamo chiamare un ex ministro che da tanto tempo che non chiamiamo, voglio capire alcune cose. Ma non risponde. Sì. C'è la Cancellieri? Chi è? Buonasera, la Zanzara. Parenzo. Oh madonna mia, Cruciani, Parenzo. Quanto che tempo? Quanto tempo? No, la bocca tempo. Impastata, cioè che fa bevere? Come sta? Signora Cancellieri? Sta mangiando. Bene, adesso sto preparando una cacio e pepe, insomma. La cacio e pepe, ma sono le 8:30 quasi, le 8:30. Scusi, la gente, gli esseri umani normali, quest'ora stanno mangiando. Sì. Come dobbiamo chiamarla, signor Ministro, signora Cancellieri? Come la chiamiamo? Dal punto chiamatemi Anna Maria, che volete che vi dica? No, vabbè, no, per carità. Non lasci perdere tutti i convenevoli, queste cose. Ma com'è di umore lei? Com'è di umore? Ma insomma, potrebbe andare pure meglio, perché insomma... Perché? Che è successo? Come perché è successo? Eh beh, insomma, lei Cruciale dovrebbe saperlo, lei segue il calcio, segue le partite. Ma per il gol di Osvaldo al 94esimo. Ma ti rendi conto? Guardi, quello Osvaldo è una carogna, è una carogna. Ma no, poi quello era Jenny a carogna, che c'entra? No, Osvaldo è una carogna, poi è andato pure a giocare sotto la curva. Guardi, un comportamento indecoroso. Indecoroso. Ma io speravo i fatti valido. Di politica, ma io non scusi. Ex ministro, ma con tutti i fatti di politica che ci sono, sì, e che inchieste, e lei parla sempre di calcio, è una cosa agghiacciante. Ma mi perdoni tanto, Lorenzo, mi ha chiesto se ero di cattivo umore. Sì, ero di cattivo umore, perché vedere un ex che giocava nella Magica Roma e che ti va a fare queste esultanze così, vabbè, ho capito. Squallida, indecorosa, sotto la curva romanista, questo non è una cosa. Vabbè, bella. Ministro, senta una cosa, ma questa vicenda di Jenny Agarogna, ma lei insomma, sarebbe successo se lei fosse stato ministro? A bello mio, con me non sarebbe mica successo. Ma come no? Ma che c'entra? Sono limpida, sono cristallina. Ma che c'entra questo che lei è cristallina e limpida? Signor Cancellieri, scusi. E io cosa avrebbe fatto lei? Punto e basta. Cioè, cosa avrebbe fatto? E gli davo un sacco di botte, Ma come gli dava le botte? E gli davo un sacco di botte. Io mi pigliavo la rotola del genio della Catogna e mi facevo il mouse. Altro che AMSIC. Quello fa parte. Il mouse. E lo sbarbatello. Guardi che disastro. Che disastri ha combinato. Ma chi? Chi dice? E vabbè, lo Stato italiano senza cancellieri non vede quello che viene fuori. Mandano AMSIC, questo ragazzotto, questo pischello. Ma lei poi dice... La curva, non so mica in quale lingua parlasse. Non so lei poi dice anche dell'Utri, no? Dell'Utri. E beh, insomma. Ma con lei stava già in carcere, immagino, o no? Quasi. Con me sarebbe successa un'altra cosa. Cioè? Sarebbe successa un'altra cosa. Sì, stava in carcere, sicuramente. Beh, stava in Italia. Ma come in carcere? Ma subito dopo l'arresto in Italia, con me ministro della giustizia, sarebbe scattato lo svuota carceri e lui sarebbe nuovamente libero, capito? Beh, ho capito, però non è una bella cosa, scusi ministro, scusi, non è proprio una cosa eccezionale. Cruciani, ma di che stiamo parlando? Bisogna pure provare questi calci in qualche modo. Comunque. Ci devo andare io di persona ad aprire una porticina dietro l'altra. Vabbè, no, perché no. Ministro, allora, scusi, comunque. Cominciamo da Dell'Utri. La cacio e pepe com'è? E se lei non me la fa mangiare, mica glielo posso dire. E sta qua. Vabbè, ministro. Buonasera, grazie. Buonasera. Buonasera, forza lupi. Forza lupi. Ridaglia con sto forza lupi. Aspetta che te pizzi con un'altra vecchina qua, eh. Aspetta che te le pizzi con un'altra nonnina adorabile. Mirella da Genova. Senta, non le dico neanche buonasera. Lei è una persona, squallida. Allora, se è così. Come lotta! La signora Mirella, come lotta! Sì, mi faccia parlare. La prostituta. Stia zitto una sega. Vada a farlo lei. Perché lo fa lei? Ma guardi, se avessi bisogno, allora, probabilmente allora, lo farei. Che messaggio è? Che messaggio si è dice gigolo. Che lancia? Che messaggio è quello che è là? Io come donna sono non indignata. Brava. Sono arrabbiatissima. Brava. E che vuole fare, signora? Scrivere una letterina alla direzione? Beh, no, ma non scrivere una letterina al Sole 24 Ore? A Confindustria? Può, sì. Io sostengo che è giusto prostituirsi. Lei, che le donne se non hanno lavoro e anche gli uomini come? Possono andare tranquillamente a diventare puttane. Lei ma io che c'è? Io non ho bisogno. Lei, preferisco fare un altro lavoro. Esatto, c'è un sacco di gente che magari ama fare la puttana. Chi? Ma sì, conosco. Ma che messaggio può dare? Ma che messaggio? Ma che c'entra il messaggio? Da una radio dicendo quello che dice lei. Che messaggio è? Mica. A tutte le donne perché io non ho lavoro e dovrei fare la prostituta? Ma non ho detto ma questo. Ma non ho detto lei. questo tutte le donne. E perché io sto dicendo che fare la prostituta o il prostituto. Ma lei lo proporrebbe a sua figlia, a sua mamma lo proporrebbe. Ma che vuol dire? Io sto dicendo, non è questione di proporre. Caro signor Cruciani, le parole hanno un peso, e specie quando quando c'è un microfono davanti. E allora, per cortesia, io mi sento adesso molto arrabbiata e molto indignata per le sue parole. Adesso mi faccio difendere da una persona fra poco, dopo il traffico, c'è la borsa adesso. Un attimo, resti lì, Mirella, aspetti. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa. C'è ancora il caso. Poi intanto il procuratore capo di Palermo Messineo si accorge che per portare in Italia ci potrebbero essere dei problemi, rivolto a Dell'Utri che rilascia alcune interviste dall'ospedale a 600 euro al giorno dove è ricoverato. 600 euro al giorno paga il Libano, pare, e dice: mi sento prigioniero politico, vorrei i servizi sociali come Berlusconi. Ancora a casa, beh, sì, noi, lei, sì. Noi sì, lei è ancora anche lì lei, all'ospedale. Pare. Marcello, non tornare, mi raccomando, mi raccomando. Cala. Fai il possibile, devi fotterli questi qui, devi fotterli, resta lì. Cosa spendi, stai tutti i soldi ma che tu hai. Adesso io, noi vogliamo bene, ma stai dicendo a un latitante, tu ti rendi conto? Perché non posso fare il tifo per la latitanza? Cioè, io stai facendo il tifo per la latitanza? È vero. Faccio, ma come sì? Perché? Ma prima dici che le puntate, ma no, ma incredibile, ma come sì? Ma cosa sei un buon anno? Sei il buon anno della radio ormai. Sei il buon anno. Io della faccio radio. Il tifo, lo dico sul serio, faccio ma il tifo per la latitanza di Dell'Utri. Ma come primo, fai perché primo perché penso che il reato di concorso esterno in associazione mafiosa abbia dei buchi, beh, pazzeschi. Questo vecchio d'accordo. Vabbè, questo ma sì, fino primo. A quando non c'è. Secondo, perché è un reato, voglio. Ma allora uno dice non mi va più di passare con perché il rosso. Perché a me dice piacciono, perché a me piacciono. Io voglio passare con il rosso. Aspetta. Dice perché? Perché no, non è la stessa cosa, non fare il buffone, non è la stessa cosa. Scusi, ma fino a quando c'è il rosso, non è la stessa cosa. Bisogna passare, amico. Non è la stessa cosa, perché poi mi piacciono questi personaggi al limite. Questi personaggi un po', come dire, no, che viaggiano, testa, che viaggiano al limite, dove? Sul bordo, dove? Sul bordo della legalità, ma quale della legalità. È stato condannato, queste vite romantiche, bordo? Queste vite romantiche. Non c'è nulla di romantico, una condanna per concorso esterno. Per senti anni. L'amico non leggerlo, passiamo ad un altro argomento. L'amico non leggerlo cosa ci segnala? Della serie. Beh, caro Parenzo, della serie Dura la vita. Nuove borse in transatlantico. Sfilata primaverile di tracolline in transatlantico, dove sono state avvistate quella molto rock di Renata Polverini, firmata Alexander McQueen, e quella da Fashion Addicted di Laura Ravetto, una Chanel con porta cellulare giallo oro. Dura la vita, Dura la vita. Ve lo dico a voi due, d'amico, fatevi i cazzi vostri. C'ha ragione, dai. Beh, fate i cazzi vostri, che vuol dire? Scusa, perché non si può esprimere un'opinione sul signor Dell'Utri? Dura la io. Vita. No, io lo dico esplicitamente, se Dell'Utri la spanga sono contento. Posso dirlo che se Dell'Utri la spanga sono contento, oppure devo essere messo al gabbio per questo? Beh, dovresti. No, se Dell'Utri la spanga sono contento. Fai il tifo per uno condannato, ma va bene. Aspetta. Pronto? Centro dentiere, qui distribuiamo dentiere, l'ha detto Berlusconi, dentiere per tutti, cara Annarella, dentiere per tutti. Ma chi è? Hai bisogno della dentiera, lei ha bisogno della dentiera, Annarella. Au. Dimmi. Hai bisogno della dentiera? Qui Berlusconi ha detto che distribuisce dentiere. Ma chi è che nasce a fanculo? Chi è che sta a mettersi lui? Ma no, come? Ma scusa, è un'iniziativa per chi ha bisogno. Annarella, ma tu avrai la dentiera, no? Che ancora se fate del giro, ma se vergogna che tutti quelli del nord hanno rubato tutti amici suoi di Forza Italia. Aspetta, scusa un attimo. Scusami, nonnina, ma tu hai una dentiera, immagino, no? No, fatto sentimento. Ce l'hai, no, la dentiera? Dico, nonnina, o no? Hai una dentiera? Sì che ce l'ho, però da lui non me la farei mai là. E perché? Ma perché? Perché è un figlio della mignotta. Vabbè, ma ho capito, però scusa, magari uno non se la fa dare perché non ci crede, mica perché è un figlio della mignotta. Ma scusa. Non ci crede, ma quello è un buffone, ci ha mandato per l'aria lui e quel delinquente che è morto laggiù. Chi è che è morto? E chi? Quello stronzo che è nato là. Ah, Craxi, dai, su, no, ancora con sto Craxi. Ma dai, dal 90, da quando c'è Bettino Craxi che ci hanno rovinato l'Italia. Vabbè, scusa. Anare, però la questione anche se è seria, perché Berlusconi vuole aumentare le pensioni fino a 1000 euro. Anarella. Senti, mamma, fa di tutte queste parolacce a me, che già se me rode. No, dille, per carità, qui stiamo qui per questo. Scusa, vuole aumentare. Ma a me. Quanto prendi di pensione? Io di una cosa, io con mortadella piavo dalla pensione mia, io parlo della mia, 600 euro. Con Berlusconi più 193 euro. No, vabbè, ma quello vuole portare la, vuole portare la pensione a 1000 euro, le pensioni mie. Ma ancora sta a se trappole che dice Berlusconi. Vabbè, senti, a volte saluto, ma il cane l'hai ritrovato, il cane? No, chi l'ha detto? Ma si è saputo in giro che... Ma... sta su internet pure. E chi... Ci può essere più ancora quello che mi seppia del cane. Ma magari quello non ha preso nessuno. Ma... Grazie, avevo un cane che era alla fine del mondo. Ma magari è finito sotto una macchina. No! Ma che... ha fregato un fregno che non è manco italiano. Un fregno che non è manco italiano. Manco italiano, i mortacci sua, perché è passato vicino a me. Io tutti i giorni andavo giù a portargli, perché il cane mio voleva i fettuccine a burro e parmigiano. Pure. A pasta col burro, a pasta col sugo la voleva. Scusa, ma allora puoi chiedere allora a... Allora mi ha detto, è passato, dice quanto è bello sto cane. E se l'è fregato. Mia figlia lo vorrebbe, il cane così, quanto ha pagato? E io non ho pagato niente, perché l'hanno regalato. E lui se n'è andato su. Vabbè. Vabbè. Al di là di questo, Annarella, Berlusconi adesso ha fatto, fa un sacco di cose per i cani, hai visto? Pure c'ha pure se... Ma che guardasse Dodò là, Dudù. Dudù. Come cavolo si chiama? Dudù si chiama. Ma se incontri Dudù che fai te? Che cazzo vogliono fare? Se lo incontri... Un altro cagnolino è un batuco, è tanto bello. Ma se incontri Dudù per strada, che fine fa? Te lo pigli Dudù, Certo. Dudù dà chiappi, Guarda che sta meglio da Berlusconi. Mi sa che sta meglio da Berlusconi. Meglio a casa mia. Lì è servito e riverito. Ma pure, pure lei da mangiare i fettuccini. Ah, il passetto l'altra volta stava a Roma, Chi? Amico tuo. Chi è? Parenzo. Io vivo a Roma. Sì. Vabbè, ti saluto. Ciao, Nare, a presto. Ciao. Ciao, state bene. Ciao, ciao, rimortacci tua. Ciao, ciao. Non me moleste moschito. Allora Mirella è ancora incazzata con me perché ho detto che è giusto, cioè è giusto che c'è la libertà di prostituirsi, Mirella? Sì, insomma, signor Cruciani, signora non le viamo. Lei non è la prima volta che dice queste cose. Certo. Io credo che sia una... No, io mi lasci finire il concetto, perché sennò io penso che una persona, una donna, può fare quello che vuole, ma quando lei esordisce dicendo: ah, questa non aveva lavoro, oltretutto avevo un lavoro 1000 euro al mese, ma io prima... Io faccio l'educatrice. Ma ne guadagna 10.000 adesso? 10.000? Secondo lei questa è un'alternativa? Cioè, io mollo il mio lavoro e vado a fare la prostituta? Ma perché lei è razzista, perché lei è snob nei confronti delle prostitute, perché pensa che fare la prostituta sia per forza essere una schiava, invece non è vero. Adesso lo chiedo ad una persona, che è una donna come lei. Annalisa Chirico, buonasera. Buonasera. Ciao Annalisa, giornalista. Ciao. Che ha scritto un libro, Siamo tutti puttane, contro la dittatura del politicamente corretto. Ora, vuoi rispondere tu alla signora? È una provocazione, Annalisa? Intellettuale, ma ovviamente. No, è una provocazione intellettuale, però c'è anche qualcosa, ovviamente, di... Annalisa, rispondi alla signora. Sì, è vero, il libro si occupa, diciamo, della prostituzione in senso lato, con riferimento al diritto di ciascuno, sì, di farsi strada nella vita come meglio può, e poi c'è anche una parte che invece si concentra sulla prostituzione in senso stretto, e quindi sulle tante ragazze che si prostituiscono, e tanti ragazzi, perché Giuseppe, oggi il grande tema è anche questo aumento della domanda di sesso a pagamento da parte delle donne. C'è un futuro se mi licenziano dalla radio, un futuro può essere, sì. Potrei. Sì, sicuramente sì, però è vero che tante ragazze lo scelgono. Oggi c'è l'intervista sul Corriere della Sera, tra l'altro anche il mio libro parla delle frontaliere del sesso, non solo in Svizzera, sì, ma anche per esempio nel Canton Ticino. Cioè, se uno guadagna 1000 euro facendo la barista in Italia, può reinventarsi magari lavorando anche semplicemente nei weekend, superando il confine, perché di fatto guadagna molto di più, quindi è una scelta personalissima, secondo me. È una scelta me, disperata, Annalisa. Ma perché disperata? Perché la scelta disperata? Annalisa, perché... è una scelta disperata, però. Ma non quale è scelta disperata? No, questo discorso davvero, Davide, non sta in piedi. Disperata la scelta di chi subisce lo sfruttamento, che è un ma reato. Certo, ma scusami, io rispetto la tua provocazione intellettuale, ma una ragazza che a un certo punto... Però, David, davvero, sì, solo così può essere inquadrata, altrimenti siamo al dramma assoluto. Ma quale dramma? Perché se tu una... consideri la... È il dramma, Davide, perché tu consideri la prostituzione qualcosa di negativo. Ma personalmente posso non considerarla in modo negativo, non è quello il fatto. Secondo me David fa ancora un altro errore. Posso dirlo? Cioè, non riconosce la volontà di queste persone. Cioè noi non certo, ma è l'ultima spiaggia, è la disperazione però. Veramente scelgono di prostituirsi. Ma è la disperazione, non è che la prima scelta. Io guarda, no, mettiamola così. Chi lo fa come prima scelta dice, io sai cosa, io a me piace fare sesso e piace anche guadagnarci. Ma che quello benissimo. Ma no, quella è un'altra cosa diversa. Chi per disperazione si trova come ultima chance a dover fare quello, beh, lì mi dispiace. Però ma non mi dispiace nel senso che è moralista. Ma certo che è così. Io credo che qualunque professione che noi scegliamo nella vita, che sia quella del medico, del giornalista o della puttana, è il prodotto di un'analisi costi e benefici che facciamo, delle opportunità che ci capitano nella vita. E quindi non capisco perché se uno sceglie di fare il proprio corpo, lo possiamo allora dire noi queste cose perché abbiamo intellettuale, invece sono noi abbiamo la pancia ma perché piena tu pensi che fare l'intellettuale, no, raga, fare non va così, lo scrittore non va così, eccetera, sia una cosa più nobile che fare la zoccola alla prostituta, invece beh, no, è la stessa cosa. Ecco, sì, ma questo, cioè noi pensiamo che le nostre doti fisiche meno importanti o più deprecate delle nostre doti intellettuali. Non è che se io uso un bel seno è più sbagliato che se io uso un'intelligenza brillante. Se c'è la volontà, ma è chiaro che guardate non che tutti sono furbi, non tutti, anche gente che ha un corpo lo vuole fare. La gente che usa il proprio corpo, allora. Ma non ho ma d'accordo, di mobilità sociale, ecco. Ma non tutte io mi incazzo semplicemente quando dico che se quella è l'ultima, se una decide, dice guarda, io ho un bel corpo, mi piace fare l'amore, mi metto in vendita, ma quello va benissimo. Ma guarda che c'è tanta rispetto. Gente che sceglie un lavoro che non vuole, un lavoro che non vuole, la stessa invece, cosa, eh. C'è tanta gente che fa un lavoro e non vuole fare quel lavoro, ma ne vorrebbe fare detto un'altra cosa prima. Tu prima hai detto una cosa molto brutta, ma che molto brutta, quale sarebbe? Molto grave, ma molto mai, grave, dai. Molto grave, perché hai detto, ma sì, vai in fondo, ma se non trova altro, benissimo che faccia quello. Quella è disperazione, è un'altra ma cosa. Ma perché c'è uno non che vuole volontà, fare lo scrittore, invece di fare scelta. Lo scrittore, fa il barista, è la stessa cosa. Ma invece uno non invece capire che non è la stessa ma cosa. Ma è la stessa cosa capirlo. Perché tu attribuisci al fatto di dare il proprio corpo un'accezione moralista, io, invece l'utilizzazione non del corpo è come utilizzare la penna, è uguale. È il fatto. Dai, su, vabbè. Ragazzi, avete tutti, abbiamo tutti. Tutti la pancia piena e siamo pieni di idee. Scusami. Ma che c'entra la pancia tutti piena? Tutti e tre, chi con colori diversi, con portafogli più pieni di altri, come le foto che ho pubblicato della casa di cui già vi documentano. C'è chi ha la pancia più piena, un po' meno. Ma hai pubblicato delle foto della mia piccolissima stanza. Sì, quella era solo un particolare. Adesso arriveranno tutte le altre, guarda. Ma appunto, quando non è questo mai, il tema. Noi abbiamo la pancia piena. Quindi, noi abbiamo la pancia piena, abbiamo la penna in bocca e con la penna in bocca dissertiamo. Diciamo, oh, ma in fondo il mestiere della puttana. Ma in realtà c'entra? Non è così. Vabbè. Perché chi lo fa per disperazione va aiutato. Ma c'è un sacco di gente che fa lo spazzino per disperazione, non ti preoccupare, guarda, ma non dici la stessa cosa. Un po' di prostitute, prostituti che sono tutto fuorché disperati. Esatto, tutto fuorché. Se non avessi alternativa faresti quello, Annalisa, non credo. Prostituirsi innanzitutto un mestiere di testa, cioè ci vuole una grande testa per prostituirsi. Certo, ma tu perché devi acquistare anche lo faresti? Col tuo corpo significa utilizzare la propria sessualità per i propri fini. Io davvero e tu lo non faresti? Sono incredibilmente moralistico il discorso. Ma io che non fai, faccio nessuna cosa morale. Tu lo faresti fosse la tua ultima chance? Non credo. Ma che c'entra adesso la cosa personale? Io probabilmente no, innanzitutto io ho usato il mio corpo e lo uso nelle relazioni con gli altri come mi pare. Cioè in che senso? Fai un po' la puttanella, non ho capito. Molto disinvolta. Ci ho detto. Cioè, che vuol dire che lo usi nelle relazioni con gli altri? Che fai un po' la smorfiosa, la zoccoletta? Che come ciascuno di noi usa il proprio corpo. Cioè, se uno ha un carisma, cerca di. Io ogni volta che esco di casa, se un incontro di lavoro, cerco di vedere il meglio di me, sia sotto il profilo intellettuale che sotto quello fisico. Mi piace piacere, cioè, a tutti piace il piacere. È la stessa cosa, Parenza, ha ragione lei. Questo va bene, ragione lei. Questo. Un mezzo col quale si comunica con gli altri, un linguaggio anche. Ma certo, se state parlando con io adoro queste cose qua. Radicale, mi ha mandato un ascoltatore, mi ha mandato un riferimento per una escort dell'oceano, di questo famoso oceano, questa famosa Beatrice di cui parlava. Ma cos'hai, la tessera a punti tu ormai? No, nome no, Beatrice, chiedo. Età 24 anni, altezza 160 cm, bassina però 160. Vabbè. Beh no, 160, sì, come basso no. Peso 47 kg, lingue parlate italiano, inglese e spagnolo, cioè più di molti professionisti, genere escort, accompagnatrice girls. Bellissimo. Poi c'è note signora, particolari, no? Possiamo un po' sì, possiamo anche appunto. Non dirlo, eccetera. C'è il telefono, eccetera. Sì. Beh, questa è la civiltà, tu capisci? Ma la civiltà. Cosa ma la civiltà è la civiltà, ho capito, è la civiltà. Nessuno dice nulla di questo. Cara analista, ti ringrazio, ci sentiamo la prossima volta. Allora, grazie Barbara, ciao, Barbara da Venezia. Mi raccomando. Barbara da Venezia. Sì. Buonasera, sono molto arrabbiata. Pure lei è arrabbiata. Perché state dicendo tante di quelle cazzate. No, state, no, state. Veramente stiamo rasentando. No, state. Non so, siamo a un livello sociale. Guardi, bassissimo. È un livello, no, guarda, no, è veramente una porcheria. Siete molto bassi come livello. Ma c'è una porcheria al di là del vostro titolo. E che siete intellettuali, che siete giornalisti, che siete laureati. Siete peggio degli animali. La prostituzione non c'è nel mondo animale. Ma come si può dire, ma che ci si può abituare? È un livello veramente bassissimo. Si può abituare a queste cose, andare insieme, ma a delle persone con ma cui non si prova nulla. Ma stiamo scherzando? Ma che schifo! Ma che siamo arrivati? Ma che schifo! Voi la chiamate civiltà? Civiltà? Questo vuol dire veramente fare aria ai pro, ai sensi più reconditi. Ma che schifo! Uomo, ma è veramente una porcheria. Più sfrenata. Ma è veramente una porcheria, guarda. È veramente una porcheria, guarda. È veramente una porcheria. Lei è una porcheria, Cruciani, perché è senza una morale. Io vorrei sapere se sua figlia un giorno le dice: papà, non ci trovo lavoro, vado a fare la troia. Vorrei sapere cosa le dice. Ha perso il treno, è vecchio, è Tutankhamon, è messo lì, è mummificato, con tre dita di far, va lì in tutti i programmini a fare il simpatico con quel cazzo di Dudu che bisognava darlo alla vivisezione, ma vaffanculo te Dudu! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi, quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Dudu, ma non dovevamo vederci più, Dudu.